Italia in controluce. Pomeriggio di Radio 24, è il 14 febbraio, vi parla Daniele Biacchiesi, quella che state ascoltando è la seconda edizione di Italia in controluce. Questa seconda puntata odierna è dedicata alla lentezza della giustizia, agli annosi problemi della giustizia penale e civile e più in particolare al tema della prescrizione. Il reportage di Raffaella Calanda. Una giustizia lenta con una prescrizione breve che manda ogni anno al macero migliaia di processi e altrettanti milioni di euro. Una giustizia che non funziona è una giustizia che costa, infatti, come l'Europa ha più volte ripetuto al nostro paese. E ora che sui rapporti tra il Parlamento e i tribunali le nubi si sono diradate, per dirla col primo presidente di Cassazione, l'Italia affronta anche questo capitolo semplicemente come una delle voci strategiche per la crescita, senza più battaglie campali tra giustizia e politica, tra opposti schieramenti, ma con l'Europa come bussola. Per la lunghezza dei processi l'Italia più volte è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, soprattutto quando Strasburgo ha capito che i ritardi erano al quadrato, cioè erano lunghi i tempi anche per risarcire chi aveva subito le lentezze dei procedimenti. Lo ricorda Paola Accardo dal Consiglio Europeo di Giustizia. Dal punto di vista dell'Europa, per quello che mi riguarda, il problema ovviamente rilevanza ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, che stabilisce il diritto di ogni persona di avere un giudizio in tempi ragionevoli, e sotto questo profilo indubbiamente i tempi dell'Italia sono stati sempre abbastanza lunghi e abbiamo avuto un notevole contenzioso nei nostri confronti. Il problema però che abbiamo è che a sua volta non c'è però una sufficiente copertura finanziaria per pagare questi indennizzi concessi dai nostri giudici, in particolare dalle corti d'appello, per i ritardi nei procedimenti. Che succede allora? Che i ricorrenti delusi, perché devono ancora attendere troppo per ricevere questi pagamenti, si rivolgono a loro volta alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. All'inizio, quando è entrata in funzione la legge Pinto, bloccava tutti i ricorsi nei quali ci si lamentava dell'irragionevole durata dei procedimenti, dicendo: ma avete il rimedio interno. E poi a un certo punto non li ha più bloccati, dicendo che però il rimedio interno non funziona, perché se non viene pagato quanto viene accordato, o viene pagato solo con molto ritardo, allora vuol dire che il rimedio non funziona, e ha incominciato a esaminare questi ricorsi e mano a mano a concedere dei risarcimenti per questi ritardi, che sarebbero proprio ritardi sul giudizio, sui ritardi, insomma. Per sbloccare una macchina ingolfata da anni, il vicepresidente del CSM, Michele Vietti, propone tra l'altro una revisione dei meccanismi di impugnazione, ma suggerisce anche di congelare la prescrizione in caso di rinvio a giudizio del giudice, soprattutto per reati come la corruzione. Il problema dei problemi è l'eccessiva durata dei processi. Noi abbiamo tempi processuali che ci attribuiscono la maglia nera rispetto al resto del continente, che penalizzano fortemente non soltanto i cittadini, ma il sistema delle imprese. Bisogna che noi affrontiamo di petto il tema della ragionevole durata. Per far questo è essenziale mettere mano alla rivisitazione della geografia giudiziaria. Il governo ha ricevuto una delega dal Parlamento per ridisegnare le circoscrizioni, 2.000 uffici giudiziari collocati in oltre 3.000 edifici sono un lusso che non ci possiamo permettere. In questa direzione, in nome quindi di una ragionevole durata del processo, va anche la sua proposta di una revisione del sistema di impugnazioni, e secondo lei ci sono anche gli estremi per riprendere casomai una vecchia proposta di abolizione dell'appello in caso di assoluzione in primo grado? Noi non possiamo più permetterci il lusso di 3 gradi di giudizio per qualunque tipo di controversia. La Cassazione è inondata ogni anno da 50.000 ricorsi penali e da 30.000 ricorsi civili, il che vuol dire 80.000 ricorsi l'anno. Negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema svolge contemporaneamente la funzione di Corte Costituzionale e di Corte di Cassazione, ogni anno vengono introitati 80 ricorsi. Dunque siamo a 80 rispetto ad 80.000. Un altro aspetto dei mali della giustizia italiana è quello dei tanti processi che muoiono per prescrizione. Lei stesso si è fatto portavoce, diciamo, di una proposta forte: congelare la prescrizione. Lei la collega ad alcuni reati in particolare oppure no? Noi siamo sotto osservazione da parte dell'Europa, in particolare per quanto riguarda i reati di corruzione, in cui i termini di prescrizione sono anche qui i più brevi del continente. Abbiamo la maglia nera dei tempi più lunghi della durata del processo, in compenso abbiamo i tempi più brevi di prescrizione. Questo ovviamente determina un cortocircuito perverso, perché un processo farraginoso che si incrocia con un tempo di prescrizione troppo breve manda in fumo il processo. Questo avviene in modo clamoroso per la corruzione, ma avviene in modo abbastanza generalizzato per un gran numero di reati, alcuni anche gravi, alcuni anche che destano allarme sociale. Si pensi che negli ultimi 10 anni si sono mediamente prescritti in Italia 169.000 processi l'anno. Determina anche una generale sensazione di impunità, che è uno degli aspetti più gravi. Un agente patogeno, così il presidente della Corte d'Appello di Milano Giovanni Canzio l'aveva definita la prescrizione all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Non è più sostenibile l'attuale disciplina della prescrizione del reato, nella parte in cui estende i suoi effetti sul processo usque ad eternitatem, propiziandone il grado di ineffettività e disincentivandone i percorsi alternativi. La prescrizione del reato, collocata sullo sfondo della scena del processo, si rivela come un agente patogeno, induce premialità di fatto, scoraggia le premialità legali, incentiva strategie dilatorie, implementa le impugnazioni in vista dell'esito estintivo. E ora dunque che sui rapporti tra politica e giustizia le nubi a detta di tutti sembrano essersi diradate, all'orizzonte prendono sempre più corpo quelle riforme che la politica ha fatto sempre più fatica a digerire, come l'accorpamento dei piccoli tribunali, e potrebbe essere una rivoluzione, come riconosce lo stesso presidente dell'ANM Luca Palamara. L'Europa ce lo dice in maniera molto chiara, ci dice di ridurre il contenzioso del 20% e ci dice di ridurre lo smaltimento dell'arretrato. Ecco, i due poli, smaltimento dell'arretrato e organizzazione interna degli uffici, sono le due linee direttrici attraverso le quali si debbono muovere i progetti di riforma. Primo fra tutti, evidentemente, anche quello della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, accorpando ed eliminando i tribunali inutili. Secondo voi bisogna in qualche modo approfittare di questo momento, cioè di questa presenza anche di un governo tecnico, per portare avanti delle riforme che casomai un governo politico fa più fatica a portare in porto? Io direi di sì, prima fra tutte quel nodo spinoso che è questo della diversa dislocazione dei tribunali sul territorio, che tradizionalmente è un argomento che vede degli interessi contrapposti. Il vicepresidente del CSM Michele Vietti lancia la proposta di congelare la prescrizione per alcuni reati, primo fra tutti la corruzione, e in tal modo si salverebbero, calcola, 169.000 processi. Una proposta forte che la trova d'accordo? È una proposta che, come Associazione Nazionale Magistrati, quando si parlava in Italia del processo breve, di accorciare i termini appunto della durata dei processi, noi collegavamo soprattutto ad un reato specifico, quello di corruzione. All'epoca, quando la nostra voce sembrava inascoltata, che cosa dicevamo? Attenzione, perché il reato di corruzione, ad esempio, non è che viene accertato il giorno in cui la corruzione è commessa, ma spesso e volentieri, proprio perché è un reato che prevede un accordo tra corrotto e corruttore, viene scoperto magari a distanza di anni, supponiamo 4-5 anni, e da quel momento in poi nel nostro ordinamento funziona che il termine massimo di prescrizione, ad esempio del reato di corruzione, è 7 anni e mezzo. Ipotizzare che nell'arco di 2-3 anni si possano svolgere 3 gradi di giudizio sicuramente è una sorta di utopia. Avete ascoltato la seconda edizione di Italia in Controluce. Questo e tutti i programmi di Radio 24 li potete scaricare in podcast. Avete anche la possibilità di comunicare con noi attraverso Facebook, con la pagina e con il gruppo, con Twitter. Abbiamo un blog sul sito molto visitato, radio24.it, oppure le mail controluce@radio24.it. Domani torniamo alle 6.30 su Radio 24.